28. Quella notte, prima di andare a dormire, Molly pregò. Pregò i venti che soffiassero dolci. Pregò il sole che i suoi raggi illuminassero la loro vittoria. Pregò lo spirito di Hendrik che portasse saggezza alle sue decisioni. Pregò Nonna Luna e il padrone della vita che non si spargesse troppo sangue, che permettessero di tornare alle case, di pensare al futuro dei loro figli. Molly pregò William, che guidasse i suoi occhi e i suoi sensi, che controllasse le passioni, la rabbia, l'orgoglio. Molly chiese aiuto, poi si addormentò. La chiesa era gremita. Occhi e teste sfioravano il soffitto come sacchi di mais ammucchiati per l'inverno. Proprietari irlandesi, fittavoli scozzesi, guerrieri Mohawk, orsi e lupi accovacciati sul pavimento di terra. Enormi tartarughe reggevano l'altare sul dorso. Il pastore, in piedi sul pulpito, sfoglia il libro delle preghiere. Peter si alza in piedi, in braccio al violino, la vecchia marcia irlandese che suo padre faceva intonare alle cornamuse prima di dare battaglia. Due sachem in guanti neri e un mantello da lutto si avvicinano alla bara per calarla sotto l'altare, ma la fossa non è ancora scavata. I fedeli si fanno avanti uno per volta, raccolgono una vanga e provano ad affondarla, invano. La terra è più dura del ferro. Il manico del badile si spezza. Joseph impugna il tomahawk per usarlo come piccone. Ronaterionte lo affianca, il volto in ombra. Scava con le unghie finché le dita non buttano sangue. Oltre il muro di schiene la bara è ancora aperta, ma invece del corpo si vede soltanto un lembo d'azzurro. La chiesa scompare. Al suo posto una foresta d'aceri in autunno. Seduto su un masso, Sir William benedice con un sorriso gli sforzi di Joseph e Philip. Ha un sonaglio di tartaruga e il volto dipinto. Mi avvicino, siedo sulle sue ginocchia, gli accarezzo le labbra. «Chi c'è nella bara, William?» Lui risponde, ma è una lingua sconosciuta. Un vento di tramontana porta via le parole. Sul fiume appare una canoa. A bordo una ragazza. William sale e mi porge la mano. «Accompagnami nel giardino, amore mio, al centro dell'acqua». Joseph e Philip caricano la bara. La canoa risale la corrente. Stringo la mano della ragazza. Al polso porto un bracciale d'adozione. Gli occhi hanno il colore del fiume. È Esther Johnson.